Olimpia di Dario Ricci. Guruciaga, l'azione dell'Argentina, un'Argentina che avanza a folate, palla per Maradona ora, Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zecca, il pallone che termina in gol. Io sono qui che annaffio i fiori mentre tu sei fuori con chissà chi. Quattro tiri, quattro gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima. E va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Trattami come un uomo. Dopo il palleggiatore può solo appoggiare. Diago, proviamo col muro. Resta in campo cubano, il pallone non cade. Lottiamo ancora a rete. Lucchetta, Paolo. Berardi! Berardi! Campioni del mondo! Sul tetto del mondo! Generazione di fenomeni, siamo noi. Generazione di fenomeni, ma come mai? Eh sì, capitò tutto in una manciata di mesi, in quell'ormai lontano 1990. Il sogno mondiale degli azzurri del calcio che sfuma al San Paolo di Napoli per l'astuzia e l'abilità di Maradona e Caniggia e di un'Argentina che poi si vedrà strappato il titolo dalla Germania. E poco dopo, a fine ottobre, in Brasile, l'Italia della pallavolo che conquista il suo primo storico mondiale superando in semifinale i padroni di casa e nella finalissima la grande Cuba per 3-1. Riviviamo oggi quell'avventura con due protagonisti, divisi dalla rete e dalla rivalità allora, ma uniti ieri come oggi da rispetto e amicizia. Nella metà campo azzurra troviamo, a proposito, un grande amico di Radio 24. Andrea Zorzi, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno, ben ritrovato. Allora Andrea, in quell'autunno brasiliano voi azzurri del Volle asciugaste col vostro trionfo le lacrime dei tifosi del calcio delusi per l'esito dei mondiali giocati in casa pochi mesi prima. Immagine romantica. Dunque, sì, era un bel gruppo, non credo che l'obiettivo fosse asciugare lacrime degli italiani a causa di un mondiale che non andò come si voleva. Però sono d'accordo con te che sia personalmente che come gruppo che poi con gli effetti successivi quella vittoria fu per noi un passaggio straordinario, qualcosa che ci lanciò in un mondo inimmaginabile in quel momento per quanto riguarda l'importanza, il piacere e le gratificazioni. E devo dire la verità che adesso quando ci ripensiamo qualcuno dei miei compagni in quest'ultimo viaggio che è Processo alla Vittoria, quindi un viaggio che ho fatto per raccontare insieme con i miei amici quella storia, qualcuno ricordava che durante l'estate questa sorta di competizione interdisciplinare ci fu contro quelli del calcio. Tra l'altro ricordo che sul tuo canale YouTube hai rivissuto tutte le tappe di quella vittoria in un'esperienza video che hai chiamato appunto Processo alla Vittoria, con interviste e documenti inediti che sono online tutti da vedere. A ripensarci sembravate predestinati a quel trionfo, eh? Sì, è così. Diciamo che proprio nel riparlarne tanti anni dopo con i protagonisti, compreso Velasco, diciamo così che emerge a volte quasi un po' troppo l'idea di una programmazione precisa, perfetta, tutto immaginato. Ora, Velasco ha sicuramente una grande abilità nel sapere quali sono le condizioni base per far crescere virtuosamente un gruppo, ma anche lui ha confessato che in realtà in queste occasioni ci vuole coraggio e il coraggio serve solo quando non sai bene come va a finire. Perché se sei sicuro che finisce bene, non è coraggio, è semplicemente una strada da percorrere. E quindi la programmazione, trovare i temi, è sicuramente una grande abilità di Julio. Poi trovò un gruppo speciale, un gruppo molto motivato, un gruppo con grandi abilità, un gruppo che, ci piace dire, non era solo di fenomeni, ma era anche di minatori. È gente che ha lavorato con grande intensità, sempre per la capacità di Velasco, dice ho trovato un gruppo di giocatori fortissimi che lavoravano così intensamente come se fossero scarsi. E questo ha reso quella squadra vincente nei primi anni e poi anche qualche anno successivo. Un esempio su tutti, c'era un allenamento particolarmente duro che facevate, se ricordo bene, basato su battute e ricezione e un certo numero di ace, mi pare 10 da fare. Raccontaci meglio. Allora, a rigor di logica tecnica, non erano 10 gli ace da fare, ma erano 8 ricezioni precise su 10 battute senza errori. E quindi capitava che molte volte, quando arrivava le ultime battute, bastava un piccolo, non dico errore, una piccola imperfezione per annullare l'esercizio e si restava lì. E molte volte è capitato che Velasco, in tribuna, quindi mostrando anche fisicamente un po' il dispiacere, si fa per dire, di sdegno per le nostre prestazioni, urlava a Frigoni: e posticipa la cena, che era per le 9, invece stava alle 10, quindi si stava lì fino a quando l'esercizio arrivava. Certo, Velasco ha trovato in noi anche gente che non solo era desiderosa di fare bene, ma che, come tu dicevi prima, se non ci riuscivi qualche volta chiedevi un surplus di lavoro. Queste anime diverse, queste anime hanno fatto sì che quella squadra crescesse come un gran team. La cosa sorprendente è che non fu grande solo quella squadra, ma un'intera generazione di pallavolisti. Allora, ci sono due aspetti su questa cosa, secondo me, rilevanti. E sono rilevanti perché poi alla fine quella squadra, dall'89 al 98, ricevette dalla Federazione Internazionale il premio di miglior squadra del secolo, del XX secolo. Quali sono le ragioni di questo premio? Certamente le tante vittorie, anche se poi non abbiamo mai vinto l'Olimpiade, che è l'oro più importante. Però in una fase iniziale, diciamo così, quella cosiddetta Italia 2, fatta di riserve, giocò a livelli inimmaginabili, perché Julio era riuscito a trovare il modo per motivare anche dei ragazzi che erano buoni giocatori ma che hanno fatto cose straordinarie. Quindi il primo passaggio era non solo i 6 titolari, ma l'intera squadra, seppur con differenze, che giocava al massimo potenziale. Il secondo passaggio invece è generazionale, cioè dopo il 90, dopo il 92 per la precisione, entrarono il povero Bolenta, Samuele Papi, Marco Meoni, Pasquale Gravina, quindi una generazione un po' più giovane. E questo passaggio fu comunque fluido e molto armonico. E quindi proprio per questo la Federazione Internazionale ha deciso che quella squadra meritava un premio così, per noi, importante, perché ha vinto con giocatori, con allenatori e con generazioni diverse per tempi lunghissimi, e nello sport questo conta molto. Eravate consapevoli che potevate vincerlo davvero quell'oro mondiale, Andrea? Abbiamo avuto una certa capacità a fare un passettino alla volta, e ti ripeto, in questo processo alla vittoria molti miei amici hanno ricordato con molta chiarezza. Venivamo da un'annata straordinaria, l'89 con l'Europeo, e nel 90 vittoria consecutiva in World League e nei Good League Game. Prima del Mondiale ci fu un periodo di grande calo, di tensione, preoccupazione, soprattutto per quanto mi riguarda, giocai veramente molto male, quindi affrontammo il Mondiale, certo, con buone convinzioni, ma con tutti i dubbi di una grande manifestazione. All'inizio abbiamo sopportato la frustrazione delle grandi sconfitte con Cuba, per esempio, dopodiché in realtà siamo partiti e nei quarti di finale con l'Argentina, in quella mitica semifinale col Brasile, beh, lì è venuto fuori che quell'Italia era sicuramente una squadra che poteva puntare molto molto in alto. Molti miei compagni hanno identificato la vittoria 3-2, 15-13, nel Maracanesigno contro 27.000 tifosi brasiliani e contro il Brasile, con un momento nel quale si diceva lì abbiamo capito che avremmo potuto vincere anche la finale. Ma anche in questo considero che l'opinione di Toffoli deve essere quella di Bernardi, di Gardini, Gianni, quindi i ricordi sono spesso discordi. Un dato oggettivo, quella Cuba faceva paura, con un certo Joël Despeigne che, come dite voi, quella sera fece i buchi per terra, tante furono le schiacciate messe a segno. Magari solo quella sera, Joël Despeigne in realtà aveva fatto i buchi per terra in tutti gli anni precedenti, poi quella sconfitta fu per loro così dolorosa che ha segnato il loro futuro, e quindi Cuba, che poteva essere la squadra che dominava, ha avuto difficoltà negli anni successivi. Joël poi vive in Italia da un sacco di anni, parla perfettamente italiano, invece di essere quel diavolo veramente spaventoso in campo è diventato una persona di una simpatia davvero inimmaginabile. È molto molto divertente passare del tempo e di parlare con lui, l'abbiamo fatto in questo periodo anche perché chiaramente è considerato proprio come il nostro avversario principale in quel mondiale. Lo conosciamo bene Joël, ci aspetta fra poco dall'altra parte della rete. Ma Zorro, torniamo a quella partita, il fotogramma del match point, dai, raccontacelo. Dunque è un fotogramma indiretto, nel senso che abbiamo tutti adattato un po' i nostri ricordi a quelle immagini che volenti o nolenti abbiamo rivisto molte volte, quindi l'ultimo attacco di Bernardi, poi Bernardi e i Gardini che vanno sul seggiolone seguiti da Cantagalli, tutti in mezzo a festeggiare, io che vado a discutere con Joël Despeigne in panchina, qui ci sono le immagini che sono una mezza via tra averle riviste e averle memorizzate. Dopodiché c'è un po' il buio, perché oltre al vuoto di Lucchetta, voi sai che Lucchetta racconta spesso che dopo quell'ultima palla caduta per terra gli venne una malinconia, il vuoto si spalancò di fronte a lui, in realtà, come dice Cantagalli, più con un vuoto ci fu un pieno di liquori quella sera, e quindi i ricordi sono un po' confusi anche per questa ragione. Beh, direi giusto così, direi giusto così. Senti, quel titolo che tracce, che insegnamento, direi, ha lasciato nel volley e nello sport italiano? È molto molto complicato parlare di insegnamenti. Tracce, certo che sì, non solo tracce, ma si può parlare di un prima e di un dopo. Ora, sarebbe veramente sbagliato dimenticare il fatto che la pallavolo era uno sport diffuso nel territorio molto prima di noi. Il mondiale del 78 con la meravigliosa argento di Carmelo Pittera, l'University nel 70, il bronzo a Los Angeles nel 84, quindi non è che la pallavolo si è inventata da noi. Certo, noi l'abbiamo proprio a un livello più alto. E lì poi è il momento nel quale quella squadra per 10 anni ha vinto più che qualunque altra nazionale successiva. Quindi anche qui pro e contro. Credo che la pallavolo sia cambiata con noi, noi insieme con la pallavolo, che molte generazioni successive hanno dovuto portarsi lo zaino di questo ricordo un po' ingombrante. Sì, ma la generazione di fenomeni, sì, ma... E allora, sportivamente possiamo dire due cose. Numericamente è chiaro, nessuno ha rivinto tanto come quella nazionale. Dopodiché è vero che comprendo a fondo alcuni atleti moderni, recenti, che dicono sì, ma sempre del passato si deve parlare. E via, giocheremo ancora in questo fragile equilibrio tra ricordo nostalgico del passato e sguardo rivolto al futuro. Beh, partita piacevolissima da giocare quando si hanno compagni di squadra e di viaggio come te. Andrea Zorzi, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te e alla prossima occasione. Qualche istante di pausa e torniamo in campo sotto rete quel 28 ottobre 1990 al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Olimpia. Mamma mia, il diavolo. Arriva, arriva il diavolo. Arrivate Spagna, fuori il muro. Annullata la prima palla messa agli azzurri. Beltran, Iago, De Spagna non si riesce a chiudere il muro azzurro sul suel De Spagna. Palleggia Diago, naturalmente si cerca De Spagna che va ancora a trovare la mano esterna al muro di Lorenzo Bernardi, decisivo Joel De Spagna in questo frangente. Vante, Diago, arriva De Spagna, toccata da Bernardi al muro. De Spagna ha annullato tutti i match ball per la squadra italiana fino a questo momento. Avete capito perché lo chiamavano il diablo? Perché schiacciava come un demonio Joel De Spagna e della Cuba che contese all'Italia di Julio Velasco il primo storico titolo mondiale quel 28 ottobre 1990 al Maracanazinho di Rio de Janeiro era l'implacabile bocca da fuoco. Un campione che con l'Italia ha intrecciato non solo la sua carriera ma l'intera sua vita, visto che ora vive ormai da molti anni proprio nel nostro paese. E allora, Joel De Spagna, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, sono onorato di essere ospite vostro. Joel, sentiamo il tuo perfetto italiano, ormai da un bel po' di tempo ti sei trasferito nel nostro paese, ma quanto ci hai fatto soffrire quel 28 ottobre 1990? Sì, perfetto italiano è una parola, ma mi impegno tantissimo a cercare di essere più italiano che mai, perché è da tanto tempo che sono qua. E 30 anni fa l'Italia si è rubato, come si dice, strappato dalle nostre mani il campionato del mondo. Io dico così perché noi eravamo favoriti, poi l'Italia si è comportato molto bene e la vittoria finale è passata a mano dell'Italia. Però mi ricordo tantissimo quei momenti che sono stati di gioia per lo sport e anche per la pallavolo, perché è stata una grande partita. E dire che l'Italia l'avevate già battuta nel girone eliminatorio, poi in semifinale il netto successo contro l'Unione Sovietica, partita mai banale per voi cubani. Io dico che quella vittoria contro i russi ha dato ulteriore conferma a noi in quel momento di che eravamo forti, di che eravamo che era l'anno nostro per vincere qualcosa di importante. E così è stato, con l'incrocio contro la Russia. Loro erano le squadre più forti da vincere, noi ci siamo preoccupati per vincere quella partita e così è stato, e abbiamo dato tutto per arrivare in finale, perché portare una vittoria al nostro paese, a Cuba, era importante. Allora quel gruppo si doveva confermare a livello internazionale e così è stato. Per vincere contro la Russia è bastato un po' di orgoglio, un po' di fortuna e anche tanto sacrificio durante l'anno, che abbiamo detto questo è il nostro momento e non se lo facciamo strappare. Che idea vi eravate fatti dell'Italia guidata in panchina da Julio Velasco? Guarda, ti dico la verità, le squadre italiane era un gruppo molto compatto, che il leader era le squadre, il leader era gli allenatori e il leader erano tutti insieme, perché ognuno nel suo ruolo faceva il poco per le squadre, che aiutava a confermare quel gruppo. Uno dei giocatori più temibili, che io pensavo di più che bisognava fermare, era l'opposto, no? Però ti dico la verità, in altre partite non aveva dato il massimo, in quella partita ha dato il massimo di sé, ha aiutato tanto la sua squadra, che era Andrea Sorsi, e ha aiutato tanto la sua squadra, ha giocato così bene che non ha sbagliato niente, ha fatto tanti punti per la sua squadra, però era il giocatore che io ammiravo di più, che io mi confrontavo di più con lui, era il giocatore da annullare, da mettere da parte. Invece quel giorno non lo so che cosa ha fatto Velasco, non lo so che ha fatto lui, però ti dico la verità, parlando con lui mi ha detto, io ero incassatissimo con Velasco perché in altre partite contro di noi lui aveva giocato non bene, e allora Velasco un po' lo ha stuzzicato, lo ha caricato e lo ha portato a essere un giocatore in quel giorno non arrabbiato, sino deciso e convinto per fare bene per la sua squadra, e così è stato. Stima ricambiata è quella di Andrea, come ben sai e come abbiamo sentito nei tuoi confronti. Eppure alla vigilia della finale eravate voi favoriti. Ti dico la verità, noi eravamo tranquilli perché avevamo vinto sempre contro l'Italia, ma no, non ci siamo resi conto che era una finale, la finale la vince chiunque. E noi stavamo lì a vedere l'Italia o si era il Brasile, perché noi in quel momento eravamo un gruppo molto compatto, molto forte, e allora contro l'Italia, quando ha vinto contro il Brasile, abbiamo detto va bene, tranquilli, giochiamo la partita e cerchiamo di dare il nostro meglio, però non ci siamo reso conto che quella partita era la partita della vita, e loro, così è stato per loro, e noi eravamo troppo tranquilli, troppo sereni, non ci siamo reso conto. Quando ci siamo resi conto già era tardi. Quella sconfitta segnò anche l'inizio del declino per quella fantastica squadra cubana. Senti, influì in qualche modo anche la situazione politica di Cuba col regime di Fidel Castro e la voglia di andare via, di andare all'estero? No, ti posso dire la verità e ti posso dire quello che sentivano quei giocatori in quel momento. Quel giocatore sentivano la libertà di giocare per lo sport, per Cuba, per rappresentare il suo paese. Non ci avevano il desiderio come questi ragazzi di oggi di uscire di Cuba, perché stavamo bene a rappresentare quel regime, era la mentalità, era il momento. Allora noi quello che facevamo lo facevamo perché la nostra famiglia, per lo sport, per Cuba, per Fidel, diciamo anche così, perché in quel momento lui aveva dato tanto all'educazione, alla salute, allo sport, ci aveva dato l'opportunità di rappresentare il nostro paese a livello internazionale, così è stato per la mentalità che avevamo noi. Il desiderio di scappare o di andare fuori non c'era, ti dico la verità. E noi a ogni partita sapevamo che almeno io e almeno il mio gruppo doveva portare il risultato in patria, però per continuare a vivere bene, a vivere come rappresentante dello sport cubano all'interno di Cuba. E oggi che emozioni provi da italiano di adozione? A me mi è rimasto nel cuore sempre quello che ho fatto per lo sport a Cuba, per il mondo, come atleta, no? Come atleta volevo dimostrare che Cuba era un paese a livello sportivo forte e io no, ho nel cuore tutto quello che ho fatto per la nazionale cubana. Oggi sono cambiati i tempi, sono un'altra nazione come l'Italia, che è la mia seconda, come si dice, patria, no? Il mio secondo paese, sono in casa qui e cerco di dare il mio meglio dove mi trovo a lavorare, che è insegnare i bambini a fare lo sport, alle famiglie, aiutare il lavoro delle famiglie, alla crescita del loro figlio, e questa missione mi porta tanto orgoglio, mi porta tanto desiderio di farlo bene, perché so che quanto è importante un campione a insegnare i valori dello sport a livello familiare, anche dei bambini, perché crescano con una mentalità giusta, con una mentalità sana che aiuti a loro a affrontarsi a livello sportivo, anche a livello psicologico nella vita. Però ti dico, ho tutte e due nel cuore Cuba, perché mi ha dato all'inizio, tanto fisicamente come tecnicamente, anche politicamente, tanto piacere farlo per loro. Adesso mi fa piacere farlo per l'Italia, per il mondo e anche per i bambini, che il giorno del domani saranno il futuro dello sport in generale. Joel Despeigne, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. E grazie a Olimpia, grazie a te, grazie al programma che mi ha dato l'opportunità di stare con voi. Speriamo continuare a dare emozione, continuare a dare gioia al mondo sportivo e anche tutto in generale, sia a livello cubano che italiano e anche mondiale. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.